Nessun impatto sul governo, dice Conte, ma è difficile che la decisione di Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle non lasci strascichi, anche pesanti. Un addio al veleno nel quale il ministro degli esteri si è scagliato contro le pugnalate arrivate dall'interno e tutto il fuoco amico. Tutto ciò alla vigilia di un voto strategico, quello in Emilia-Romagna, che ormai pare caricato solo di valenza nazionale. Della regione, del suo futuro, si parla poco o nulla. Tutto ciò in un momento che resta delicato anche a livello internazionale. In Libia, dove i lanci di missili di ieri certificano che la tregua non è un granché solida. A Davos, dove il presidente americano torna a minacciare le auto europee, ipotizzando dazi del 25%. Di cosa si discute, di cosa si chiacchiera? Ancora della vicenda di Salvini al citofono, con i contorni che si chiariscono un po'? Del virus partito dalla Cina. Le vittime sarebbero 17, in Italia allertati anche i medici di base. Isolata la città cinese dalla quale è partito. Per lo sport, la Juve travolge la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. L'Italia del tennis fuori Sinner e Berrettini, resta aggrappata a Fognini negli Australian Open. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Le 6:31 minuti e 38 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno in questo giovedì 23 gennaio. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate sentire la vostra voce, diteci come la pensate. Anche su queste dimissioni di Luigi Di Maio, cosa rappresentano? Ragazzi, se ci pensate è curioso, no? Perché uno di solito si dimette dopo una sconfitta, non prima di quella che presumibilmente sarà una sconfitta. Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, i contatti Instagram e Twitter ormai li conoscete, l'email 24mattino@radio24.it. Iniziamo dalla voce di Luigi Di Maio, E direi che iniziamo da quella sui nemici interni. Abbiamo tanti nemici, certo. Quando si prova a cambiare lo status quo, quando si vogliono davvero cambiare le cose e trasformare l'atteggiamento delle istituzioni, c'è sempre qualcuno che resiste e ti fa la guerra. Ma nessuna forza politica è mai stata sconfitta da un nemico esterno, bensì sempre dal suo interno. I peggiori nemici sono quelli che uno non immagina mai di avere e che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Beh, bello tosto, mi pare. Del resto, della fronda nei confronti di Luigi Di Maio spesso abbiamo parlato, abbiamo avuto anche qualche ospite su questo. Tornerà da noi tra poco alle 6:45 Dalila Nesci del Movimento 5 Stelle, che è stata una delle dure oppositrici appunto del leader per certi versi. Di Maio che dice: io non mollerò mai il Movimento 5 Stelle. Molti di voi, anche negli ultimi minuti, mi hanno scritto per dirmi di non mollare. Io voglio dirvi una cosa: io non mollerò mai il Movimento. Il Movimento è la mia famiglia. Deve essere chiaro che io ci sarò agli Stati Generali e anch'io, come tutti noi, voglio portare qualche idea innovativa per la nostra amata Italia. Oh, detto ciò, non è male la... me lo fa venire in mente l'applauso che abbiamo sentito, la vignetta che c'è stamattina sul Secolo XIX di Rolli, che si intitola Il capo espiatorio. Si vede Di Maio che dice: allora io vado, ok, ciao, non cercate di trattenermi. Ma no, magari ci rivediamo. Ci scrive Luca via WhatsApp: meglio dimettersi che essere licenziato. Dai Luca, che cattivo, che cattivo. Roberto Inciocchi: di Sky TG24, conduce Start dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Ciao Roberto, bentornato, eccoci. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Allora, che te ne pare di questo addio di Di Maio alla vigilia delle regionali in Emilia-Romagna, che certificheranno presumibilmente la caduta ulteriore del Movimento 5 Stelle? Che ti pare? Allora, ti dico, secondo me lui apre una crisi prima del voto e non dà uno shock nello shock al Movimento, no? Cioè risultati acquisiti. Ci apriamo di fronte ora, prima di quello che succederà in Emilia-Romagna, insomma, dove è previsto che il Movimento, diciamo, non vada bene, ecco, non andrà bene. In questo modo si tutela in parte anche il Movimento in grande difficoltà. E poi sai cosa mi è piaciuto? O comunque guardando le immagini, quando lui si toglie la cravatta ieri, no? Quel gesto, sì, lì, lui dice, a modo suo ovviamente, guardate che io sono pronto a combattere, sono pronto a combattere chi mi è contro dentro il Movimento, cioè basta con la faccia buona, il sorriso rassicurante, i modi da bravo ragazzo napoletano, perché so fare la guerra a chi mi fa la guerra. E poi Di Maio era stanco, insomma, diciamo, tutti i retroscena ci raccontano di un Di Maio arrabbiato, avvilito. Ricordiamo poi che è giovane Di Maio, insomma, un giovane uomo che ha ricoperto ruoli importanti, ha avuto ruoli di responsabilità e ha ritenuto di far questo. Ma io credo che la cosa più importante sia il fatto che lui sia voluto uscire in questo modo prima delle elezioni per non dare un ulteriore shock al Movimento dopo le elezioni, che insomma si ritiene sia particolarmente difficile. Buon punto. Vito Crimi, che prende la reggenza del Movimento in quanto, non ho capito bene, membro anziano, non so esattamente quali siano i meccanismi, poi i meccanismi interni dei partiti contano poco, insomma, membro anziano, lo so, insomma, comunque, Crimi, sentiamolo. Questo fatto è un fatto molto naturale che abbiamo costruito insieme nelle ultime settimane e che, no, lo dico subito, non ha nessun impatto sul governo, non ha nessun impatto sull'azione di governo del Movimento 5 Stelle, che continuerà come abbiamo fatto fino adesso. Anche Zingaretti del PD dice non avrà effetti sull'esecutivo. No, io credo che sul governo penso non avrà effetti, è un po' il segnale appunto di un dibattito che io rispetto all'interno del Movimento 5 Stelle su come stare dentro questa fase politica. Io penso che bisogna schierarsi, essere contro il centrodestra che si è riorganizzato è un punto di identità e il PD di questo ne ha fatto una grande battaglia. Ci scrive un altro ascoltatore: Di Maio è stato costretto a un passo indietro perché l'idea è quella di portare sempre più il Movimento 5 Stelle verso sinistra. E c'è invece chi ha l'interpretazione opposta, cioè che chi dice rientra Di Battista e quindi c'è un riavvicinamento alla Lega. E in realtà questo è tutto da vedere, probabilmente è solo appunto una mossa interna. Comunque tutti si affrettano a dire occhio che il governo regge, tranquilli, nessun problema. Matteo Salvini. Le notizie del giorno: Di Maio si è dimesso. Non sono uso commentare le scelte degli altri, però io ho toccato con mano anche stamattina in Calabria, l'ho toccato in queste settimane in Emilia e Romagna, che Grillo, quando ha deciso di tradire gli italiani andando col PD dei poteri forti per salvare la poltrona, ha perso ogni tipo di credibilità e di dignità. Tutto quello che volete, ragazzi, però insomma, caro Roberto, in fondo Zingaretti e Crimi non hanno torto, perché non è questo elemento quello che fa cambiare la direzione al governo, che fa tremare il governo, ma quello che succederà domenica nelle urne, no? Io sono assolutamente d'accordo, c'è il grande nemico Salvini, per questo il governo, soprattutto per questo il governo si tiene insieme. E, insomma, anche per il governo gli shock sono quotidiani, l'elezione di Maio, è stato l'ultimo shock. Io credo si è detto in questi giorni, ma il governo terrà in caso di risultato sfavorevole in Emilia Romagna, magari ci saranno problemi per Zingaretti dentro il Partito Democratico, questo insomma. Certo, io credo che se in Emilia Romagna, e sappiamo che i due contendenti sono incollati in questo momento, se in Emilia Romagna andrà male, io credo che in qualche modo problemi per questo esecutivo ci saranno. ci scrive un altro ascoltatore, nulla avrà effetto sul governo, è una variabile indipendente da qualsiasi evento. Sì, è vero, perché lo dicono, ovviamente lo dicono sempre, perché le tensioni che leggiamo e che vediamo sono quotidiane. Allora, torna, si continua a parlare di questa vicenda di Salvini citofona, che poi è diventato un hashtag, insomma, su Twitter, molte prese in giro, molti scherzi su tutto questo. Ovviamente era anche l'obiettivo di Salvini, è chiaro, guardate, non è nemmeno una critica, stiamo svelando quello che è palese a tutti, e che è un meccanismo di comunicazione abbastanza, come dire, abbastanza tosto, è già sfruttato da altri, l'abbiamo raccontato ieri. Si fa una cosa particolarmente divisiva, o si dice una cosa particolarmente divisiva, per uscire, per aprire un dibattito, per far parlare, eccetera, eccetera. Meccanismo ampiamente sperimentato da Donald Trump e riuscito fino ad ora perfettamente, tanto che continua a parlarsene. Poi però ci sono i fatti, insomma. Allora, lui va a citofonare a questo e dice: signor Iaia? Ce l'abbiamo ancora sotto mano da qualche parte, Carmelo? Ce l'abbiamo, lo facciamo risentire, giusto per curiosità, ma... no. Eccolo. Buongiorno. Buonasera. È il signor Iaia? Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. Sì, vabbè, insomma, no, io... poi qualche ascoltatore scherza, devo dire, è venuto in mente anche a me, Aldo, Giovanni e Giacomo, signor Aieie. No, invece no, il povero Iaia in realtà si scopre oggi che è un bravissimo ragazzino di 17 anni che gioca a calcio nell'Imola e che è stato anche convocato 3 volte a Coverciano, quindi penso che tutto abbia interesse meno che a spacciare. E dice, insomma, sentiamolo su Salvini. Ho 17 anni, non è vero che spaccio, eccetera, eccetera. Cioè, mio padre lavora, a me non mi manca niente. Cosa devo... Sono un minorenne, vado a scuola, faccio la vita da mai di tutti i miei studenti. E i tuoi genitori che ti hanno detto? Ma mio padre, cioè, è rimasto male. Mio padre si spacca il culo, vai a vedere adesso, vai in casa e vedi i vestiti di Bartolini. Ecco qua, eccolo, Iaia, il quale dice: guardate, mio fratello ha avuto dei problemi in passato e adesso non ce li ha più, è pulito. Dice, il quale fratello poi viene raggiunto dai giornalisti e dice: sì, è vero, ho avuto dei problemi con la giustizia e ora sono pulito, spacciavo, dice, sentiamo. Io sono pieno di precedenti. Però adesso? Sto facendo il bravo, sì. Tuo fratello? Mio fratello è bravissimo, gioca a calcio, è campione italiano anche della nazionale, ha fatto pugilato. Io sono campione di pugilato della nazionale. Spaccio o non spaccio? Non spaccio io adesso. No. In passato sì. Ho fatto di tutto e di più. Ma non gira neanche più qua, cioè abita lui, non abita neanche più al Piastro. Ho fatto tanti anni di galera, c'ho anche i definitivi che mi devono arrivare. Però adesso tu non fai più niente. Non faccio più adesso niente. Adesso lavori. Sì. Dove poi il mitologico spacciatore tunisino si rivela essere uno che ha un accento dell'Emilia-Romagna più forte di alcuni emiliani romagnoli. Emiliano o romagnoli, insomma. Emiliani nella fattispecie. Ieri poi, tra l'altro, ospite alla Zanzara c'era la signora che ha denunciato il tutto, che è una signora che ha una storia dolorosissima, la trovate oggi sui giornali. Il figlio era tossicodipendente, affetto da SLA, era ridotto su una sedia a rotelle e a un certo punto ha deciso di iniettarsi una dose letale per uscire da questa condizione, se così vogliamo dire, una storia dolorosissima. Così ieri la signora alla Zanzara. Ma io abito nel portone dopo, dunque non è che qual è il problema? No, perché quelli là alla fine non si capisce se sono spacciatori o non sono spacciatori. Sono spacciatori, abbiamo le prove e lo dimostreremo. No, abbiamo chi? Quelli non è la polizia, signora, però. Sì, ho capito, le sto dicendo che abbiamo le prove, abbiamo foto dove si vedono loro, dunque. Ma loro chi? Quelli che ha chiamato Salvini? Del portone, esatto. sì. E loro possono andare via a sede legale quando vogliono, sono ben attesi e sarò ben lieta di dimostrargli le ma foto. Voi avete le foto di chi? Di loro che spacciano? Non solo di loro, ma di altri, di tantissima altra gente. Così la signora la quale poi ha raccontato, mi hanno sfondato il parabrezza per la mia lotta contro la droga, insomma sarà tutto da vedere. Di certo, caro Roberto, mi pare che a prescindere dalla singola cosa che è stata commentata, stracommentata, ne abbiamo parlato all'infinito, mi pare che anche questo sia la dimostrazione che dell'Emilia Romagna si parla pochissimo, cioè si parla di questioni nazionali, perché questo è chiaro che una situazione di quel genere non è una situazione sulla quale un'amministrazione regionale in genere può intervenire, è una campagna di carattere nazionale, come dimostra poi anche oggi il fatto che Salvini sarà bibbiano, no, per la conclusione della campagna. È esattamente così, è Salvini che la porta sul piano nazionale, Bonaccini invece prova a ricondurla, ha provato in queste settimane a ricondurla più sul piano locale, ma insomma è chiaro che quello è il tema. Peraltro sulla storia del citofono, insomma, si è detto, no? Una volta era il giornalista che rincorreva il potente, no? Adesso invece in qualche modo è il potente che processa l'uomo comune, qualcuno l'ha chiamata la degenerazione della specie. Il fatto del citofono è orrendo, però siccome questa campagna elettorale è stata più interessante in termini di comunicazione, Ti stiamo perdendo, Roberto. Ti stiamo perdendo. Adesso sì. Dicevo, questa è stata più interessante questa campagna elettorale dal punto di vista della comunicazione rispetto ai contenuti. È orrendo, secondo me, il citofono, quell'episodio lì, però è oggettivo che Salvini fa l'ennesima trovata. Che funziona. Del resto stiamo qua a parlarne. Traffico. Mattino. Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle, torna da noi. Nesci, buongiorno, bentornata, eccoci. Buongiorno. Allora, è contenta delle dimissioni di Di Maio lei? No, non sono contenta, anche se era un momento che si aspettava che... Aspetti Nesci, aspetti, che oggi, e non è solo oggi, non è solo oggi, abbiamo dei problemi coi telefoni... maledizione. Allora, mi si mette vicino a una finestra per gentilezza, in un luogo nel quale prenda decentemente il telefono. Proviamoci. Allora, Nesci, non è contenta. Chiaro. Ok, non è contenta, e questo l'abbiamo capito. Prego. Dicevo che era auspicabile che ci fosse un passaggio di testimone, un cambio nella leadership. Quindi, in effetti, lo aspettavamo da tempo. Ma la questione non è Di Maio o non Di Maio, ma il dopo Di Maio. Io l'ho detto chiaramente, non abbiamo mai creato i presupposti per quello che verrà dopo, perché abbiamo dei problemi strutturali all'interno del Movimento 5 Stelle circa la democrazia interna. Quindi si apre un momento difficile e secondo me il Movimento 5 Stelle ha bisogno assolutamente di un capo politico con un mandato pieno. Quindi siamo in una fase effettivamente delicata. Siete in una fase delicata, adesso si andrà se non vado errato, Nesci, lei ovviamente ne sa più di me, si andrà al voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere il nuovo capo, come funziona? Ci sono dei candidati, ecco, come vanno le cose? Le risposte dovrebbero essere ovvie se fosse insomma tutto onesto e chiaro, invece non è così. Anche gli stati generali che si prospettano, in realtà non sappiamo bene come avverranno e come si svolgeranno. Siamo effettivamente in attesa di capire come ci prepariamo a quel momento. Infatti, più che parlare di chi sostituirà Di Maio, dovremmo capire attorno a quale carta dei valori ci riuniamo e decideremo di stare insieme da qui in poi. Perché anche la squadra dei facilitatori, nostro sotto legge Di Maio, poi dopo gli stati generali che cosa succederà? Cambieranno? C'è una tempistica anche un po' sospetta in questa dimissione, quindi sicuramente dobbiamo anche aspettare. Sospetta, dice lei, che vuol dire sospetta? Perché non si comprende il motivo per cui questa cosa sia avvenuta a pochi giorni dal voto delle elezioni regionali. Io sono stata molto critica per quello che è accaduto in Calabria, la mia regione. Abbiamo attraversato momenti difficili che dipendono secondo me dalla crisi identitaria del Movimento 5 Stelle. E quindi dobbiamo capire qual è la nostra visione di futuro, ovviamente. Allora, risentiamo il passaggio di Di Maio, quello nel quale dice: ho terminato il mio compito e nel frattempo vediamo se riusciamo ad avere una connessione decente con Dalila Nesci. Ci si prova, non sempre si riesce, ci si prova, c'è un grande tema di telefonia nostro e forse anche di questo paese. Di Maio: è arrivato il momento di dirci che per stare al governo e dare risposte concrete alle persone serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata e strutturata. Ho lavorato per un anno a questo progetto, dalle elezioni in Abruzzo del 2019, che ci hanno scosso non poco per il risultato, e adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito. Ci siamo fatti dei nemici a causa delle leggi che abbiamo fatto, dice Di Maio. È successo sui vitalizi, sulle trivelle in mare, è successo sulle pensioni d'oro, è successo con la legge anticorruzione e il carcere per i grandi evasori, è successo per la prescrizione e con l'obbligo per i partiti di rendicontare tutti i finanziamenti, anche quelli delle fondazioni, è successo quando abbiamo aumentato le tasse ai concessionari del gioco d'azzardo, alle banche e alle compagnie assicurative per finanziare il reddito di cittadinanza, il regime agevolato per le partite IVA, quota 100 e gli sgravi per i contratti stabili ai giovani nel decreto dignità. Nesci, secondo lei chi dovrebbe guidare il movimento? C'è il problema che è difficile trovare un'alternativa in un contesto dove non esistono delle regole chiare. E ho detto che la tempistica delle dimissioni è sospetta proprio perché non lascia presagire che si è compreso che il movimento ha dei problemi strutturali. Non basta parlare di stati generali, dobbiamo parlare di come si svolgeranno e quali sono le regole che ci diamo per arrivare al futuro del Movimento 5 Stelle. Perché ricordiamoci che ci parliamo al nostro interno, cerchiamo anche di rilanciare l'orgoglio 5 Stelle, ma contemporaneamente abbiamo anche delle responsabilità di governo e forse e sicuramente si è sbagliato anche ad appiattire la vita del Movimento 5 Stelle, la vita interna del Movimento 5 Stelle a quella governativa, che ha tolto fiato e linfa vitale alla nostra politica sul territorio e quella appunto di visione, appiattendoci appunto alle responsabilità di governo, che sono grossissime ed è giusto assolutamente mantenere ed essere alla testa. Quindi secondo lei Nesci non dovreste uscire dal governo? Secondo me noi dobbiamo mantenere i nostri impegni istituzionali, però dobbiamo farlo con una certa dignità per il Movimento 5 Stelle, che si deve rigenerare, ma ribadisco, la mancanza di democrazia interna rende difficile questo al momento. Qua qualcuno propone, un ascoltatore dice, propone Paragone come leader del Movimento 5 Stelle. Denis, davvero mi sembra dura, però se fanno secondo me un problema che non si propone una donna per il futuro. No, se fanno mi veniva da dire un contest, maledizione, se fanno un'elezione aperta, per così dire, insomma, non è escluso che appunto Paragone anche si possa candidare. Va bene, vedremo come andranno le cose. Grazie a Dalila Nesci, deputata del Movimento Grazie 5 Stelle, per essere stata con noi. Sono una precisazione con gli ascoltatori. Allora vedremo come finirà questa vicenda della citofonata, quali saranno i dettagli che emergeranno eventualmente su questa famiglia. Diciamo, l'apparenza non è così come la metteva Salvini e come la metteva questa signora. Poi che ci siano dei problemi in quella zona, che ci siano dei problemi di spaccio in generale nei quartieri delle nostre città, ragazzi, non c'è il minimo dubbio. Va bene, il tema era la mossa mediatica, l'operazione fatta, le modalità dell'operazione fatta, il punto è quello. Comunque, siamo qua che ne parliamo, quindi evidentemente ha funzionato, almeno sotto questo aspetto. Torneremo a parlare di regionali più avanti alle 8:35. Ospiteremo il candidato del centrosinistra in Calabria, Pippo Callipo, e poi la candidata della Lega proprio in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. Alle 8:20 avremo un approfondimento sulla lotta alla mafia col direttore della Direzione Investigativa Antimafia. E però adesso c'è GR24 e subito dopo invece c'è la rassegna stampa. A tra poco.